Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza, con Federico Pedrocchi e Chiara Albicocco. Benvenuti e benvenute, questa è Mebius. Evviva, ciao Federico, ben ritrovati tutti. Sei d'accordo che della prima cosa di cui parliamo, diciamo solo incredibile, dormire volando. Esatto, ecco. Poi Lepanto, la grande battaglia di Lepanto e una flotta, centinaia di galee che erano un'armata brancaleone tremenda. Disastrosi. E poi invece parliamo di uno studio italiano che per la prima volta ci rivela come è stata monitorata la radiazione solare negli ultimi 50 anni. Via! Dunque, dicevamo incredibile, lo è davvero. Sì, questa è una particolarità che hanno alcuni animali, non solo gli uccelli, di volare e allo stesso tempo dormire, cioè dormire in volo. Sì. E questo è possibile grazie a delle caratteristiche del proprio cervello. Insomma, adesso entreremo in tutti i dettagli, perché è uscito un studio piuttosto prestigioso sulla rivista Nature Communication, quindi una rivista molto importante dal punto di vista scientifico. E commentiamo la notizia insieme a Diego Rubolini. Intanto benvenuto, buonasera. Buonasera. Lei è professore associato di ecologia all'Università di Milano ed è specializzato appunto in ornitologia. Buonasera, benvenuto. Allora, dicevamo di questo studio che è stato appena pubblicato, è uno studio fatto al Max Planck Institute in Germania. Lei conosce i colleghi, insomma, che l'hanno eseguito, è uno studio piuttosto prestigioso. Si tratta di aver dimostrato in qualche modo, adesso capiremo anche come, che alcuni uccelli, in particolare sono state studiate le fregate maggiori, in italiano le traduciamo così, anche se il nome scientifico corretto è fregata minor, ecco. Sono state studiate queste fregate ed è stato dimostrato che in effetti nelle loro migrazioni o nei loro voli, che durano anche, pensate, 2 mesi, questo è il punto, non sentono la necessità di tornare a terra, perché comunque riescono a riposare e a dormire anche in volo. Sì, ma non è che durano 2 mesi nel senso che ogni tanto si fermano in un autogrill. Sempre stanno in volo 2 mesi. Rubolini. Sì, sì, è esattamente così. Questi animali hanno questa capacità incredibile di stare in volo per un tempo veramente molto lungo. E peraltro la cosa particolare è che appunto questi voli avvengono esclusivamente sopra zone oceaniche e questi animali non si posano mai sull'acqua neanche. Questo è abbastanza incredibile, visto che si nutrono di pesci. Quindi un po' come i gabbiani si posano, però quando pescano vengono giù, prendono il pesce e salgono su, fan così. I gabbiani però possono nuotare, certo, anche, mentre loro, le fregate sì, assolutamente niente, non sono in grado di nuotare, annegherebbero, e quindi catturano il pesce semplicemente a pelo d'acqua, usando in particolare le attività di pesci predatori come tonni eccetera, che spesso spingono grosse quantità di pesci sì, in superficie. È un'attività, lo immaginiamo, intensissima, quindi hanno bisogno certamente di avere staccare dei momenti di riposo. E in effetti ce li hanno molto rapidi e riescono in qualche modo a riposarsi, a dormire proprio in volo. Ma com'è possibile? Sfruttando la capacità appunto di dormire con un solo emisfero del cervello, praticamente alternando un emisfero e l'altro durante il volo, e in particolare durante le ore notturne, e sfruttando questa possibilità, capacità che pochissimi animali hanno. Gli uccelli sono tra i pochi appunto che hanno questa possibilità di dormire con solo mezzo emisfero. Finora era sempre stata, diciamo, una sorta di congettura il fatto che questi animali potessero effettivamente dormire con mezzo emisfero in volo. Questo studio per la prima volta dimostra che effettivamente questo avviene, e questo è stato possibile applicando dei piccoli elettrodi appunto per registrare l'elettroencefalogramma durante il volo, ecco, direttamente durante i viaggi. Quindi loro praticamente hanno la capacità di attivare e disattivare una parte del cervello, e con quella riescono in qualche modo a riposarsi e a dormire, e però allo stesso tempo sì, a rimanere in volo. Però c'è anche un problema. Rimanere in volo e rimanere comunque vigili, perché nel loro caso ovviamente se non fossero vigili rischierebbero di collidere contro altri uccelli oppure di perdere la rotta, di andare chissà, essere predati. Senta, però le chiedo una cosa: è chiaro che per gli uccelli è volare come per noi camminare, però c'è anche un aspetto strettamente fisico, cioè supponiamo pure che noi dormissimo un po' mentre camminiamo, però la fatica di camminare resta, cioè sembrerebbe che per questi uccelli volare è praticamente un esercizio nullo dal punto di vista fisico, cioè è impressionante. Sì, è impressionante. C'è anche da dire che questi uccelli sfruttano molto anche le caratteristiche fisiche dell'ambiente, perché loro sfruttano le correnti ascensionali per restare in volo, cioè non fanno spesso, questi animali spesso quando fanno questo tipo di attività di riposo adottano un volo planato, non battuto. Quindi spesso queste fregate hanno dei momenti ascensionali con cui possono raggiungere fino a 4.000 metri di quota, quindi anche a temperature tra l'altro molto basse, e poi man mano scivolare verso quote più basse. Questo ovviamente fa sì che possano, diciamo, ridurre, cioè il dispendio fisico energetico per fare questo tipo di attività è molto basso, e questo probabilmente consente contestualmente anche un riposo. Lei prima ha accennato, ed è molto interessante capire come i suoi colleghi, insomma gli ornitologi, studiano questo tipo di attività. Diceva appunto un piccolo encefalogramma, e certo non sarà facile monitorare per 2 mesi queste fregate, questi uccelli, appunto. Volevamo capire qualcosa di più su questi metodi. Sì, ma ultimamente diciamo c'è una grossa attività di ricerca per cercare appunto di tracciare individualmente il comportamento di questi animali durante i loro spostamenti, e non solo la posizione, ma anche appunto quello che effettivamente fanno durante questi spostamenti. E questo è possibile attraverso, diciamo, questi sviluppi tecnologici che consentono di utilizzare dispositivi sempre più piccoli per registrare i movimenti e il comportamento di questi animali. Nello specifico, in questo caso è stata usata una combinazione di strumentazioni ad alta tecnologia, tra cui appunto un micro rilevatore di elettroencefalogramma, per cui è stato appunto impiantato nella parte superiore della calotta cranica, ma senza grandi, cioè senza, in maniera minimamente invasiva, un piccolo elettrodo collegato poi a un registratore, e contestualmente anche a un rilevatore di posizione GPS in cui è stato possibile poi stabilire a posteriori la posizione e la quota di volo degli animali. Non solo, ma a questi animali sono stati applicati anche degli accelerometri, che sono degli strumenti che consentono di stabilire esattamente il tipo di comportamento che gli animali hanno, quindi se sta sbattendo le ali, se sta planando, se è in volo in discesa, se è in volo in salita, insomma, queste informazioni. E insieme a tutti questi dati si è riusciti a stabilire in maniera inequivocabile che questi animali erano in volo, e mentre erano in volo dormivano. Dormecchiavano. Ma e non è invasiva, insomma, questa... l'introduzione di questi strumenti? No, perché non è, diciamo, non si arriva a toccare il cervello, si arriva semplicemente a incidere leggermente il cranio, ma non c'è una... No, c'è uno, e poi viene rimosso una volta concluso l'esperimento. La zona si cicatrizza e l'animale ritorna alle sue attività. Giusto per concludere, soltanto 2 dati che sono venuti fuori da questo lavoro appunto così impressionante. Sembrerebbe che queste fregate al giorno riescano a dormire 42 secondi, quindi diciamo che non è che hanno proprio un recupero lungo, contro invece le 12 ore che dormono quando sono a terra, quindi proprio riescono che in qualche modo a autoregolarsi. Questo studio è stato condotto su coppie di fregate che stavano, diciamo, allevando i loro pulcini sostanzialmente, e per far questo le fregate si alternano, nel senso che gli adulti, un adulto va a procurarsi cibo con viaggi che possono durare parecchio tempo, anche decine di giorni, e mentre un adulto è via, l'altro resta a curare diciamo il pulcino, per cui probabilmente in questa situazione loro riescono a dormire molto di più, evidentemente. Va bene, allora intanto grazie Rubolini, buon lavoro, e grazie per averci fatto fare questo volo insieme a lei. Stranissimo, grazie, buon lavoro. Grazie, arrivederci, buona serata. Invece guidando è meglio non dormire. Sentiamo cosa succede sulle strade. Nebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Allora, ve l'abbiamo già detto nei titoli, stiamo per parlarvi di questo libro, L'Epanto, edito dalla Terza, e l'autore Alessandro Barbero, storico, è qui con noi questa sera. Buonasera Barbero. Buonasera. Benvenuto. Storico dell'Università del Piemonte Orientale. Allora, brevissimamente dico che questo libro è bellissimo, le grandi spy story anche di 1000 pagine, questo qui, L'Epanto, è piuttosto robusto, ma è una spy story fantastica che non ha nulla da invidiare al Codice da Vinci. Ci sono tradimenti, ci sono doppi giochi, spie, una cosa fantastica, però va bene. diciamo che la differenza rispetto al codice da Vinci è che qui è tutto vero, che qui è tutto successo. Io l'ho letto, anche Chiara ha incominciato a leggerlo. Allora, però, ovviamente noi non andiamo sull'aspetto strettamente storico, ma qui c'è un aspetto tecnico che riguarda queste flotte. Siamo nel momento del grande scontro fra le flotte, diciamo, cristiane della Repubblica di Venezia, della Spagna, che deve venire in aiuto al Papa, e anche il Papa, perché naturalmente il Papa aveva siamo una sua flotta. Siamo nella seconda metà del Cinquecento. No, andiamo dal 1570 al 1600, insomma questo è il periodo, no Barbero? Sì, sì, certo, anzi specificamente è, diciamo, l'escalation che porta alla grande guerra di Cipro e alla battaglia di Lepanto del 1571. Okay. Esatto. Allora, il nostro problema è che era un'armata Brancaleone micidiale, no? Per esempio? Sì, noi ci siamo un po', leggendo così, ci siamo confrontati su alcuni episodi, su alcune cose che ci hanno colpito anche dal punto di vista scientifico. Ad esempio, ci chiedevamo come mai appunto queste flotte, appena salgono su queste galee, su queste appunto navi, appena partono esplode il tifo. Su tutte. No, in certi casi esplode la peste anziché... Ah beh, no, ecco, sì, è vero. C'è questa alternativa. Sapete che cos'era una galea o galera? Insomma, si usano entrambe le parole. È un barcone lungo 40 metri, largo appena 5, per cui c'è appena una passerella al centro per camminarci sopra. Ci sono subito i rematori ammassati lì che lavorano. E su questo barcone di 40 metri per 5 ci stanno, in aspetto di guerra, qualcosa come 300 uomini. Una follia. Provate a figurarvelo. Ecco, e stanno ammassati lì in mare, si stanno per giorni in mare e stanno tutti lì, mangiano e fanno tutto il resto. Ovviamente mangiano poco e quindi anche del resto ne fanno poco. Però è chiaro che le condizioni igieniche sono tremende. Molto precari. Poi appunto, essendoci questo surplus di popolazione, chiunque sia portatore, ad esempio. Sì, però certo, viene da pensare subito. Che siamo a metà del Cinquecento, cioè una connessione sul fatto che come metto in mare una galea viene fuori il tifo, non è mai scattata, cioè non hanno capito, no, che bisognava fare qualcosa. Perché tra l'altro queste flotte erano totalmente inefficienti con queste malattie micidiali a bordo. Ma, diciamo, la malattia era un caso, poteva andar bene, non ti veniva, non succedeva niente, poteva venire un'epidemia che ti indeboliva un po', come succede proprio alla flotta turca l'anno di Lepanto. Può arrivare ogni tanto un'epidemia che invece ti azzoppa sul serio, come succede alla flotta veneziana l'anno prima. Ma loro non è che ci potessero fare molto, eh? Diciamo che il problema vero è che le malattie epidemiche non le sapevano curare. Quella era una civiltà raffinatissima di gente straordinariamente colta e intelligente, che però a livello tecnologico e soprattutto scientifico sapeva poco, e quindi la malattia si poteva sperare che non arrivasse. Poi diciamo che in una città, quando c'è il pericolo della peste, tu chiudi le porte della città, non lasci entrare nessuno e speri che vada bene. Ma la flotta, per forza di cose, deve portare in giro questa folla di gente. Poi ormai è partita, e raccogliere insomma nuovi rematori a ogni scalo per sostituire i morti e i disertori. Sì, quindi sì, non ci si può fare proprio niente. Sì, sì, però lei descrive appunto una flotta che è immediatamente a che debilitata, fare cioè, programmaticamente. Senta, un'altra cosa che ci ha stupito enormemente è che a un certo momento a comandare la flotta, facciamo un esempio contemporaneo, come se la Marina Militare Italiana improvvisamente avesse come capo della flotta, che ne so, l'onorevole Brunetta o il nostro Presidente della Repubblica. Scelti a caso, via. Cioè uno che non sa nulla di mare e che comanda invece dei capitani di mare che hanno una lunga esperienza. Ma personaggi prestigiosi, però ecco, che non hanno competenze. È il primato della politica, che anche alla nostra epoca esiste in certi ambiti, perché io devo dire che noi forse abbiamo capito che la guerra è troppo importante per lasciarla fare appunto ai dilettanti e ai politici, però a me risulta che invece ci sono fior di presidenze di grandi enti che vengono assegnate per motivi politici. Sì, poi sì. Oggi diciamo che si sceglie il politico per l'appartenenza e non perché è il fratello del re. No, certo. Invece in una monarchia è il fratello, magari il fratello illegittimo, come succede in questo caso del re di Spagna, Don Juan de Austria, che deve essere piazzato da qualche parte, e decidono di piazzarlo alla testa della flotta. Però, certo. certe cose non sono così incomprensibili. Ma lo si metteva addirittura a comandare delle azioni di guerra, che certo è un po' diverso che magari essere un po' più pericoloso che un ministero. Un po' più pericoloso, allora i re principi rischiavano la pelle volentieri, e la flotta cristiana che va a combattere a Lepanto è carica di principi, il figlio del duca di Parma, il figlio del duca di Urbino, che vanno perché insomma un principe ha tanti privilegi ma deve anche meritarseli, e quindi sperà anche rischiare la pelle in guerra. Intanto navigare era comunque molto pericoloso, appunto al di sotto dei principi e dei ministri c'erano poi appunto i capitani o i rais dalla parte dei turchi e dei barbareschi, che il mare lo conoscevano, i tecnici c'erano e bisognava starli a sentire. Poi certe volte il comandante in capo non li stava a sentire, le galere escono lo stesso in mare anche se il cielo si è un po', come dire, oscurato, i capitani avevano detto attenzione perché stanotte ci sarà burrasca, il comandante invece vuole coprirsi di gloria e da ordine andare avanti lo stesso. E poi quando arriva la burrasca le galere affondano e la gente muore. D'altra parte devo dire che anche nelle guerre più recenti il modo per evitare che succedano i disastri, gli incidenti, gli imprevisti e che la gente muoia in guerra non l'hanno ancora inventato. No, indubbiamente l'approssimazione, però certo nel suo libro è fantastica questa gigantesca armata Brancaleone con tutte le... è veramente infatti, un libro... ripetiamo il titolo perché anche da apprezzare davvero tutta la documentazione che lei ha messo in piedi e che ha studiato appunto per poter lavoraccio. Rendere poi in maniera così brillante il libro. Lepanto, edizioni La Terza. Ecco, intanto grazie davvero Alessandro Barbero. Grazie a voi. Il sole manda i suoi raggi, ma non è detto che arrivino come dovrebbero arrivare, potrebbero arrivare, arrivino tutti. È proprio così, nel senso che è stato per la prima volta pubblicato uno studio italiano che prende in considerazione la radiazione solare in un arco di tempo molto lungo, che comprende 55 anni. È uno studio dell'Università di Milano e qui con noi il coordinatore dello studio, Maurizio Maugeri. Benvenuto, buonasera. Buonasera. Benvenuto. Lei è professore del Dipartimento di fisica dell'Università degli Studi di Milano. Avete pubblicato questo lavoro sull'irraggiamento, sulla radiazione solare, che adesso le faremo in qualche modo sia definire e sia raccontare in che modo raggiunge l'Italia e come è cambiata nel tempo. Allora, certo, questo lavoro fotografa l'andamento della radiazione solare in Italia nel corso degli ultimi 55 anni. Questa variabile è un po' più difficile da misurare di altre variabili meteorologiche, proprio per questo non si hanno serie lunghe come per la temperatura o per le precipitazioni. In Italia questa variabile ha iniziato ad essere misurata in modo estensivo proprio alla fine degli anni 50, quindi periodo che noi possiamo coprire oggi con serie storiche di questa variabile è lungo 55 anni. Noi abbiamo recuperato i dati di molte stazioni gestite dal Servizio Meteorologico dell'Aeronautica che coprono l'intero territorio italiano e li abbiamo sottoposti ad un attento esame di qualità. Lavoro che richiede una enorme pazienza perché questi dati di radiazione solare risentono molto di problemi legati allo strumento che li misura. I radiometri sono strumenti abbastanza delicati che vanno calibrati con cura. E ha fatto un lavoro molto attento di riduzione di questi dati in modo da assicurare che essi siano omogenei e in modo da assicurare che una elaborazione condotta su di essi fotografi veramente quello che è stato l'andamento della radiazione solare. E la foto questo qual ci è? Interessa. Andando ad analizzare questi dati si vede una riduzione nella prima parte del periodo coperto da questi dati, quindi dalla fine degli anni 50 fino all'inizio degli anni 80. E poi dalla metà degli anni. Quindi una riduzione, mi scusi, della radiazione, quindi vuol dire che arrivava meno sole. Vuol dire che l'atmosfera assorbe più radiazione, la quantità di sole che arriva all'esterno della nostra atmosfera, salvo piccolissime fluttuazioni, è sempre costante, quindi se si osserva meno radiazione al suolo vuol dire che una maggior quantità di radiazione è stata o assorbita o riflessa o respinta verso l'esterno da parte dell'atmosfera. Meno negli anni 60-80 che dopo? la radiazione comincia a decrescere dall'inizio delle nostre misure per raggiungere un minimo all'inizio degli anni 80, poi dopo invece la radiazione negli ultimi 25-30 anni riprende a crescere in modo molto deciso e da allora diciamo assistiamo ad una continua crescita, diciamo. E come lo spiegate, insomma? Saremmo aspettati il contrario. Esatto, una prima ipotesi potrebbe essere che questa radiazione riflette una variazione nel tempo del dato di nuvolosità, perché la radiazione del suolo evidentemente risente di quanto il cielo è coperto da nubi e anche dalla tipologia delle nubi. In realtà dobbiamo cercare di capire quali sono le cause di questo andamento nel tempo della radiazione solare. Come dicevo, una prima causa potrebbe essere la nuvolosità. In realtà noi abbiamo fatto le stesse analisi anche considerando i soli giorni in cui non si è avuta nuvolosità, quindi soli giorni di cielo sereno. Sì. E il risultato è che non solo si vede lo stesso andamento, ma lo stesso andamento emerge in modo ancora più chiaro. Perciò possiamo concludere che la nuvolosità non è responsabile. Non c'entrava. E allora l'inquinamento atmosferico, in modo particolare l'inquinamento da particelle, da particolato atmosferico. Questo inquinamento è cresciuto in Italia fortemente negli anni del boom economico, negli anni della forte industrializzazione, negli anni del forte aumento di traffico, quindi nel periodo diciamo che è cominciato alla fine degli anni 50 e all'inizio degli anni 60. Questo incremento del benessere economico naturalmente è poi proseguito anche nei decenni successivi, ma a partire dalla fine degli anni 70 le emissioni hanno cominciato ad essere controllate in modo sempre più efficace, diciamo. Quindi nel momento in cui i provvedimenti di limitazione delle emissioni degli inquinanti hanno iniziato a manifestare i loro benefici, noi vediamo una riduzione dell'effetto dell'aerosol atmosferico e quindi la radiazione solare, diciamo, riprende a crescere. Ma si tende a dire che, non so, voglio dire, alla fine degli anni 50 in Italia c'erano 800.000-900.000 automobili, che sono all'incirca quelli che entrano ogni giorno nell'area di Milano. Sì. Come mai una cosa di questo genere avrebbe dovuto proprio creare l'opposto? Mentre invece lei dice che, per esempio, il cambio nella benzina, no? Non c'è dentro più piombo, può essere stato un fattore di grossa importanza? Questo aspetto effettivamente rimane ancora da approfondire ulteriormente e lo dovremo fare nei prossimi anni. Noi crediamo che sia anche ciò legato alla tipologia delle polveri, diciamo. Quindi, per esempio, una maggior combustione di legna, una maggior che era forte di carbone. Diciamo. Insomma, bisogna andare un po' sotto per capire bene. State ancora, c'è ancora da lavorarci. Sì, però il dato di analisi della variabile meteorologica emerge in modo chiarissimo. Il dato di interpretazione va ancora approfondito. Va bene, grazie Maugeri, allora davvero buon lavoro, ci risentiamo quando avrete anche questi risultati. Grazie e buonasera. Anche questa volta abbiamo 3 secondi per dire buona settimana a tutti e a tutte, ciao! Ciao!